Leggo sul manifesto che il municipio urbano di Kreuzburg-Friedrichshain, a Berlino, ha deciso di intestare una via, un tratto della già esistente Kochstrasse, a Rudi Dutschke, il noto agitatore extraparlamentare dei tardi anni 60 del secolo scorso. A nulla è valso il referendum abrogativo promosso da certi cittadini di opposto orientamento, che non hanno raccolto più del 42,9% dei consensi, per cui la proposta, dando per superato il ricorso presentato da certi esercenti della zona che si sentono chissà perché minacciati nei loro diritti commerciali, dovrebbe diventare esecutiva a breve. Il quotidiano, il manifesto, sull'esempio forse della Tageszeitung, che del manifesto è un po' l'omologo berlinese, ha giudicato l'evento degno della prima pagina, sia pure in taglio basso, e di un titolo piuttosto enfatico: Rudi Rosso tornò a combattere contro Springer, che allude, credo, al fatto che i giornali del gruppo Springer erano stati corifei 40 anni fa di una violenta campagna contro colui che consideravano l'uomo simbolo di tutta la sinistra antagonista. E adesso, visto che hanno sede proprio su quella via lì, come del resto la Tageszeitung, saranno costretti a perpetuare quel nome in viso sul proprio stesso indirizzo postale. La notizia potrà confortare chi è convinto che tutto il mondo sia, come si dice, paese, per cui anche i tedeschi, nonostante la fama di gente seria e pedante che gli si attribuisce, possono appassionarsi di simili futilità. Anche se va detto che di tutti gli abitanti della circoscrizione solo il 16,6% si è preso il disturbo di andare a votare. Per il resto non mi sembra il caso di entusiasmarsi più di tanto. Ci vuole davvero un overdose di buona volontà per credere che l'esistenza di una Rudi Dutschke Strasse a Kreuzberg possa essere rilevante agli effetti della lotta per la democrazia in Germania o altrove. Rudi ci ha lasciato nel 1979, vittima di un clima di violenza che gli attacchi della stampa di destra avevano senza dubbio incattivito ad arte, ma non sarà certo l'intestazione di un segmento di strada a rendergli giustizia, tanto più che una traversa della stessa via reca da tempo il nome di Alex Springer, come a dire colui che quegli attacchi aveva voluto e orchestrato, ed è scomparso a sua volta nel 1986. E poi è passata troppa acqua sotto i ponti della Sprea e degli altri fiumi d'Europa per poter affermare che una presenza, come dire, toponomastica significhi un ritorno alla lotta. Non solo perché il quadro politico è ovviamente diverso da allora e chissà su quali posizioni si batterebbe il compagno Dutschke se fosse ancora tra noi, esempi come quelli di Combendie e di Joschka Fischer non sono particolarmente confortanti, ma perché nulla assicura che il suo nome, una volta iscritto su una targa stradale, sia perciò stesso salvato dal tarlo dell'oblio e dalla notte della dimenticanza. In effetti, non so se l'avete notato, ma nulla si usura tanto in fretta quanto i nomi degli intestatari delle vie cittadine. È come se questa loro nuova identità viabilistica debba inghiottire poco per volta il ricordo dell'attività e delle opere che pure gli hanno valso l'intestazione. I cittadini si abituano al nome e dimenticano l'individuo se mai l'hanno conosciuto. Tutti sanno a Milano che via Vitruvio parte dalla stazione centrale va verso Città Studi e che via Ripamonti conduce a Opera da Porta Vigentina, ma questo non significa che tra loro ci sia una percentuale rilevante di lettori di architettura o di conoscitori della storia della peste a Milano. Gli ascoltatori di Radio Popolare associano in automatico il nostro indirizzo al nome di Ulrico Olearo, ma è lecito chiedersi quanti tra loro avranno un'idea qualsiasi del perché a quel degno personaggio sia stata dedicata la mezza via in cui abbiamo sede. Anch'io quanto a questo lo ignoro. E a Berlino naturalmente non saranno stati moltissimi, anche tra i nemici più accaniti di Rudi Dutschke, a sapere che Johannes Koch, a cui attualmente intestata per tutta la sua lunghezza quella via di Kreuzberg, è stato vice borgomastro della città nel XVIII secolo. Una funzione che francamente non sembra giustificare onori particolari né garantire memorie imperiture. Eppure le polemiche a Milano come a Berlino non sembrano destinate a placarsi. Se lassù da bravi coscienziosi prussiani organizzano un referendum, qui da noi il Consiglio Comunale non ci pensa nemmeno e non esita ad affrontare il ridicolo e a violare la normativa vicenda pur di intestare un fazzoletto di verde Oriana Fallaci. Tra via Crivelli e una via di vicino, non mi ricordo quale. E in tutta Italia non c'è amministratore locale del centrodestra che non accarezzi il sogno segreto di essere il primo ad allinearsi alle autorità di Hammamet, dedicando se non un boulevard, almeno uno slargo a quel benedetto Bettino di cui in tanti oggi, dopo averne arraffate a suo tempo le spoglie, rivendicano la cara memoria. Presto o tardi vedrete che qualcuno ci arriverà e lo seguiranno subito in moltissimi. Non è neanche il caso di farsi per questo del sangue cattivo. Intendiamoci, eh? Personalmente resto convinto, come suppongo voi, che a quel nome si debba augurare, se non la damnatio memoriae, almeno un pietoso oblio. Ma non è certo per salvaguardarne la fama che adesso si agitano in tanti gli zelatori di Corso Craxio del Parco Fallaci. Della Fallaci e di Craxi, in buona sostanza, se ne fregano assai. Si limitano a condurre una sorta di guerriglia postuma, servendosi di quei nomi controversi per celebrare piccole vendette personali, perseguendo delle modeste rivincite di basso profilo ideologico. Lasciamoli pure fare, senza soggiacere alla maldestra idea di imitarli e di contrapporre improvvisamente nome a nome. Certi progetti hanno respiro troppo corto perché valga la pena di preoccuparsene. Il giorno in cui del Bettino Nazionale si parlerà come di quello del Corso e l'ottima Oriana sarà ricordata soltanto come patronessa dei giardinetti di Via Crivelli, vivremo tutti, credetemi, in un'Italia molto migliore.